mica malati, non cazzo, tutte pelose, mamma mia. Ma lei è un sacco di morte, è zittella, ha 50 anni, sempre a casa mia madre, ha detto, ma vai intanto a trombare, no, no, non mi piacciono i maschioni, va, va, fa il culo, che okay. E sta sempre recando gelati, cazzo, ogni mattina, ogni mattina. E prenditi un cornetto qualche volta, cazzo, sempre recando cummi. Mi fa male già. Che cazzo, non c'è nessuno a fare le messa incinta. Ma se non mi fa male il naso. Che cazzo gli ha messo il naso nel culo? Cazzo, quanto è brutta cavalli. Tu immaginati una volta io che mia sorella è mancata la luce, che è tornata di corpo, sembrava la figlia di Fracchia, che è. Mamma mia, infatti si chiama Maria Rosaria, però noi la chiamiamo Mariangela. Tu guardi cavalli che mia sorella ha tutti i capelli appesi la testa. È diventata operata. Mariangela chiamano come la figlia di Fantuzzi, che tocca a me. Sapevi che a me è arrivata la lettera, non da Cagliari, per il rinnovo, non della licenza, in cui c'è scritto, si prega di voler compilare il modello in tutte le sue parti, indicando, oltre i dati anagrafici, anche il nominativo acquisito, l'anno di scadenza, l'autorizzazione a validità massima di 10 anni, la sede della stazione e gli apparati utilizzati. Addirittura bisogna includere anche gli apparati utilizzati. Gli ho fatto uno scorso io, Carlo, però cazzo, ne hanno messo tre solo, cosa devo mettere? Che elenco devo fare? 275, 475, 726, 140, 440, 680, 140, ma va bene una fanculo, bastano due radio. Secchi proprio stamattina e gli ho detto, appunto, dovevo chiedere altre cose e gli ho chiesto com'era la fase di rinnovo, mi ha detto che era sempre la stessa perché a me mi scade fra due anni il decennale, perché io avevo rinnovato col nuovo nominativo, quindi fra due anni, e mi ha detto lei faccia il rinnovo normale, poi se vuole mettere le apparecchiature le mette, se no lasci perdere. Sì, perché adesso rilasciano anche il tesserino per un radioamatore internazionale, infatti adesso ho incluso una foto certificata appunto per quello, per il tesserino radioamatoriale internazionale. Ascolta, non ti hanno chiesto altro, soldi? Allora, mi sembra che ci voglia un mollo 14,62. Cazzo di ma sai quanto ne ho spedito di quelle marche da bollo, porca puttana, non me ne hanno mai restituito una. No, è l'unica che mi hanno chiesto, è quella, una marca da bollo da 14,62, poi il versamento dell'anno e le fotocopie degli ultimi 5 anni. Degli ultimi 5, senza una TV però. Senza il canone TV, esatto, quello non lo chiedono più. E come hanno fatto a me? Fammi mandare quella roba lì, poi le fai la tua certificazione, le mandi la marca da bollo con la foto autenticata e ti mandano il tesserino. E già va bene, già va bene, già va bene. No, ma le radio io quando l'ho fatta la vecchietta di rinnovo, le radio ne ho messo solo due, ho messo il 9.40 e il 9.20, ma vaffanculo. E io infatti ne ho messo tre e basta, ho messo l'Icon, il 450, il 680 e basta. Allora basta, quante radio deve mettere? 50.000? Appunto, era quello discorso ieri su RSS, stavo facendo quel discorso lì, e chiaramente poi uno che ci vuole un fascicolo in pieno per elencare le 100-200 radio. Allora, Come fai? Cioè non si può, va? Se uno c'ha tante radio, noi che puoi elencare tutte le radio che c'hanno. Io ne ho messo due solo e ciccia, che tra l'altro poi non ho neanche più adesso, nel 940 e nel 920, perché ho rinnovato, ho preso altre radio della ICOM, quindi che cazzo vado a rompere le palle, cioè uno come scrive può anche vendere, quindi adesso io faccio il rinnovo, fra un anno quella radio non ce l'ho più, a me chi è che mi vieta di venderle a me? Che poi puntualizzano che ogni ulteriore cambiamento, per esempio se in aggiunta hai un altro apparato, devi informare loro. Infatti, cioè non esiste un discorso, ma sta cambiando tutto, Carlo, non è che sta cambiando tutto. Ma tu immaginati che un mio amico, un carissimo amico, forse conosci molto bene, dopo 10 anni, che Natalino lo conosce sicuramente, me l'hanno detto oggi, dopo 10 anni di nominativo si sono accorti che avevano sbagliato il nominativo, ho brutto rincoglionito, io sono iscritto nel Callbook internazionale, ho tutte le QSL fatte, ho tutti i contest, ho tutti i DX, ho tutti i collegamenti, chi cazzo me le paga a me tutte queste cose? Dopo 10 anni si sono accorti che avevano sbagliato il nominativo. Cacchio, lì c'è un danno enorme causato al radioamatore. C'è una cosa, anche a me la prima volta, sono una cosa allucinante. Quando io ho fatto il passaggio dai W0 a IS0, mi hanno dato nominativo. Meno male che ero in provvisoria, ero in licenza provvisoria. Dopo 2 mesi mi è arrivata la lettera che il mio nominativo non era quello. Cazzo, ma stiamo scherzando. Ai, ma lo sai che la licenza non è più valida, la licenza nostra? Praticamente decade, parte integrante prende potere il foglio, la fotocopia, c'è scritto qua, praticamente io una volta compilato questo modulo qua, questo dichiara e ha la validità di autorizzazione generale, va l'1 agosto 2003, è la nuova... il nuovo articolo del 1 agosto 2003. Ma io ce l'ho quella, io il cambio l'ho fatto su IS0, quando sono passato IS0 mi sono fatto rilasciare la licenza generale, anche la mia non è più valida la licenza quella a cartoncino, io ho la licenza generale incorniciata, quella legge del 2003. Col cambio nominativo ho usufruito della licenza generale, io. Poi adesso tutti quelli che prendono la licenza e la patente adesso usufruiscono direttamente della licenza generale del rimattore, mentre prima erano valide quelle che avevamo noi. Natale, lo sai chi è? No. Quello di produttore, se Gaetano. Cazzo, incazzato me. Dopo 10 anni si sono accorti che aveva nominativo sbagliato. Ah, oh, brutti imbecilli. Ma come cazzo fa? Cioè, una persona che 10 anni che trasmette, tu non ti accorgi che c'è un nominativo sbagliato. E gli hanno cambiato. Cazzo, gli hanno cambiato il nominativo, hanno tutte le QSL, le cose, praticamente tutto Nisba. È scritto nei callbook di tutti i radioamatori della Sardegna e di tutta Italia e di tutto il mondo col vecchio nominativo e non vale più. Niente, tutto da rifare. A me, meno male, ti ripeto, io il primo nominativo di CR era in provvisoria e quindi me l'hanno cambiato subito. Mi è arrivato subito la licenza generale con nominativo nuovo di FB. Se no, meno male, io sono un radioamatore fai da te come il povero Angelo HTS, no? Che non me la futti nulla a me di partecipare a niente. E quindi non mi hanno creato un sacco, danno non me ne hanno creato praticamente, ho solo cambiato sul combo che poi tra l'altro non l'avevi inserito tu su QRZ.com. Se no, immaginati a dire un casino, un radioamatore come Marco, uno come Walter, cioè che le fai queste cazzo di casini. Quelli hanno una perdita allucinante, perché sono dei grandi radioamatori che parlano con tutto il mondo. Non è che puoi entrare con due nominativi, ma stai scherzando. No, poi ti conoscono, capito? E anche Salvatore, per esempio, Salvatore Puis, quello fa di Exanastro e quindi è scritto la callbook da tutti. Ma già lo so, K. Ma a te ti hanno lasciato lo stesso nominativo, Carlo? Sì, sì, il nominativo mio è stato sempre quello. Io ho sempre avuto la patente ordinaria, il nominativo sempre è lo stesso e via. L'unica cosa che cambia è questa, che adesso la licenza non è più valida, ma è valida la dichiara che io spedirò e farò la fotocopia prima. Esatto, infatti anche a me mi avevano mandato la lettera di conservare la copia della raccomandata ricevuta in ritorno, di allegare tutta la documentazione in un fascicolo generale dove poi veniva a compressare l'ultimo foglio che io ricevevo, che poi ho ricevuto, che è quello della licenza generale, come quello che c'ha Salvatore Minatari, capito, che abbiamo ricevuto assieme. Quel foglio lì sta dicendo caro, dove c'è nominativo, c'è scritto in base all'articolo bimbomba la legge 2003 eccetera eccetera, si dichiara che il tizio Caio Sempronio è proprietario della licenza numero eccetera eccetera, quella certificazione lì, quella lì è la dichiarazione generale dell'attestato radiomatore, non esistono altre tappe all'infuori di quello. Infatti c'ho la fotocopia di quello in macchina. Carli! Ma è numero di Mattoli, la mandano però la ricetta, se no come fanno? Cosa Natali? Numero? No, a quelli che la fanno adesso, proprio per dire, adesso uno si prende la patente, no? Ma la ricetta a quelli nuovi gliela mandano però. Certificato la mandano come no, non ce n'è più licenza, la mandano il certificato, un attestato è, dove si dichiara che il tizio Terre Sembrunio la licenza numero tot numero con nominativo come quella che c'ha io Salvatore, uguale a quella. Vabbè, l'importante è che abbia un foglio che dice che tu sei, hai quella licenza. Anche c'è scritto Ministero delle Telecomunicazioni, Natali, non è un foglio un pezzo di bambino, con tanto di protocollo, attestato e tutto. Non la fanno più quella licenza come c'ho io, infatti io c'ho la licenza, quella vecchia, e la patente è sempre valida, la licenza è allegato, c'è questo foglio perché me l'hanno detto loro, alleghi alla licenza vecchia, quella è in sostituzione alla licenza vecchia, come tu c'hai il CDP, no? della macchina, e c'è il talloncino del passaggio di proprietà, la stessa cosa, è un passaggio che hanno fatto di documentazione, quindi bisogna avere la vecchia e allegato la nuova, così c'hai tu caro. Sì, adesso, io ho la vecchia ancora, devo spedire adesso, siccome scade alla fine dell'anno, dovrei spedire adesso, come spedisco, faccio prima di spedire, faccio la fotocopia e la quella fotocopia. Ma ciao, ne quelle ti, ciao, anche Natalino che mi sta ascoltando, saluto tutti da parte mia. È parte interna. Saluto a casa. Ehi, aspetta che sta chiudendo Franco, fra. Ciao Carlo, ciao Natalino, c'è anche a Natalino, vai. Ma la cassa QRT ci aggiorniamo domani, ciao a tutti, buonanotte. E saluto gli eventuali CWL che sono in ascolto. Per me QRT, ciao a tutti, buonanotte. Cassa, riprendo io. Ciao fra, buonanotte, buon tutto, alle prossime. Riprendi qua. Ehi, ciao fra, ci vediamo domani mattina, 9:30 sono da te. Vai Carlo. Ciao Franco, grazie alla compagnia, buonanotte e arrivederci alla prossima. Avanti Cavallino. Ciao a tutti, buonanotte, contro cambiato tutto da parte mia. Ciao. Quindi Carlo, tu c'hai la vecchia in allegato, quella che ti mandano la pinzini come ho fatto io. Sì, adesso io come spedisco, lunedì spedisco e faccio prima la fotocopia e rimane a me. E poi sono in attesa chiaramente del tesserino internazionale con l'autenticazione della foto e via. Ed è valida proprio la fotocopia col tesserino. Ehi, come ho fatto io. Io quella che mi hanno dato nuova 2 anni fa l'ho pinzata, la vecchia se la lascio così, poi se ne parlerà quando dovrò rinnovare di nuovo, capito? Tutto lì. Capo di rometro. E tu, Cavalli, cosa stai pensando? Io lo credo, ma tu lo sai, c'era anche mia sorella, è andata lì, ha dato il culo al presidente e gli hanno dato la patente. Non ci credono. E poi, siccome non sapeva né leggere né scrivere, gli hanno tirato le ricche e le hanno allungate come godri. Io non so fare niente, non so scrivere, non so leggere, non so fare niente. L'unica cosa che so fare è so trombare, gli ha detto. Ha fatto una trombata e gli hanno dato la patente. C'ha la rete come patente, perché è invalida. Figurati, c'ha le orecchie che le servono per pulire il lunato termico. Per carità, allucinante, non viene bene, non viene bene. Tu immaginati che prima di conoscere questo pastore, che è una bravissima persona per carità, non perché è mio cognato, era fidanzata con un pittore. Lei si è lasciata con questo pittore. Lo sai perché? Perché toccava tagliare tutti i peli del cinghiale, del pennello cinghiale, e non si è tutta arrangiata per mettere i peli del pennello. Che pieno di cinghiali. Cavalli. non ci crede. Beh, è andata da sola, ha preso la figlia di questa signora, e siccome aveva questa bambina, era piccolina, no? E le è mancato un secchio, guarda quanto è rosa a me, le è mancato un secchio per mungere. Beh, ha preso questa bambina, l'ha legata, ne ha tolto il pannolino, siccome secondo lei si poteva fare il cestello, ha tutto l'altro nel pannolino, ha messo, quando l'ha portato, siccome il pannolino era di quel Pampers, assorbì tutto, non c'aveva latte. Però non farci dire niente al marito, cosa l'ha fatto? L'ha truppiato, no, tutto il coso che c'era, che aveva assorbito il pannolino, l'ha messo tutto in un secchio. Bevuto. Che schifo, che c'è una zinga, ragazzi. Ma tu che ha trovato uno. Vedela. Meno male che ha trovato marito, la vuole bene, se no, per carità di Dio, per carità di Dio. Una cosa allucinante veramente. È una ragazza così, è una sorellastra, dai. È una sorellastra che ha problemi, si mezzo sordo muta, mezzo così, però minchia quanto cazzo è brutta. Mariangela si chiama. Sì. Tu immaginati, guarda, io non ne ho piedi nelle gambe, io riesco anche dalle dita. Un giorno è andata a mare. Un giorno è andata a mare a Quarta Mona. Beh, c'era questo signore, no? Come l'ha vista, ha messo l'asciugamano per terra e l'ha guardata. Ha detto, ma è possibile, cazzo, che non possano tenere le scimmie nell'altrove? Questo signore. E quando cambiava per andare a farsi il bagno, lasciava la scia nella spiaggia, no? Tipo rumenta quando passano la scopa. È impressionante, cazzo, per me, guarda, non te ne dico di tutto quello che combina, non te ne dico. Ha fermato anche la polizia stradale, perché lei si sposta per andare alla spesa, no? Per andare a fare la spesa. Da Tintino a Palmado, da lì con le zone, ha fermato la polizia stradale, hanno fatto una dichiarazione scritta che noi abbiamo letto. Secondo loro non stava guidando una persona, stava guidando una scimmia. La pelle non ce l'ha pazienza, gli ha dato la zampa e tutta la zampa fa lì, capito? La mano, si scrive tutto nella mano, dove è nata, dove è, capito? Dove è tromba. Intelligente, mica, sono tutti che si abbuccia di gioca, non è intelligente. E se no quando piscia, c'è una mandata, sembra una pompa a turbina. Tu figurati che il marito quando deve lavare la macchina chiama lei. Caro, non passate di scopa. E che vittoria, mangia di tutto, la verità non è di quella che mangia di tutto, ghiande, tutto, pezzi di formaggio, avanti, tutto. E sarebbe è incrociato, tra un vespone e una motocicletta. E cosa va bene quello che sta dicendo tuo padre? Non ci crede la Natalina, non è così? Sì, no, è troppo bella, zia. È troppo bella, vedi? La zia, vedi? La chiama anche zia. Zia Mariangela la chiama. Tu figurati che un giorno sono rimasto senza accendino. Oh cavalli, ha dato uno scorreggio, ha acceso la sigaretta a me e a 10 persone, e a quello che c'è anche a me, mi si è acceso tutto il pacchetto. Benzina, di tutto bello. Di tutto. No, le altre due sono belle. Ma ma Mariangela è un tuo zio. No, zia, la prima uscita, appunto, prima uscita a marito, veramente. Vedi, a me sa male, che è un casino, è un casino. Se quando abbiamo iniziato la casa, l'ho chiamata, gli ho messo la vernice in bocca, no? Gli ho detto, dai, stanotisci. Allora, tutta la parete è verniciata. Io quando la vedo in piazza che mi chiama da lontano, quando ti chiama ha un raggio di chiamata di 50 metri. Io non mi giro mai, capito? Non mi giro mai. Che urla. Urla, vedi? Urla. Urla, fa urla. Non sentire, capito? Sembra un cinghiale quando ti chiama. No, la mia figlia è al computer. Mia figlia piccolina. Sono piccolina, 30 anni. 20 anni. Vai con la cammina, con la vita. Ma, oh, ma. No, no, sei già riprovata. Ehi, ci ha accettato Valghiero lì da Pasquale. C'è stata lì ad Alghero, eh? Non era lavorando. Dove? No, ma a fare cose impossibile, lavorando. No, lei a fare cose era in corso, che siccome è diplomata all'alberghiero, capite? E quindi fa le stagioni adesso, il prossimo mese, cioè questo mese, il 21 parte a Reggio Emilia a lavorare. Anche lei, insomma, c'ha 20 anni, non farà la fine di mia sorella, comunque. No! Speriamo di no, ma se non trovi qualche polpo, cazzo, boh. Cosa? No, mia figlia già è bella. Oh, importante non me ne porti qualche polpo, paraculo, anche lei. Qualche incrocio tra un maccione di ghiaccio e una donna di muro. No, sei fidanzata, c'era? No. No, non fidanzata. Sono fidanzato, c'è che a me. Cazzo di mala giù, figa. Subito, come fidanzata? No, sono libero. Vediamo, là. Quando ci vediamo faccio due conti, due giri, soldi ne hai. Cazzo, ti ho notato, sì, allora non ti voglio, ho sgattato un mille volte l'idea. Già lo so, Carme, chi sei, io, ma stiamo scherzando, eh. Già lo so chi sei, se ti ho detto quelle cose stasera è perché ti conosco, pensavo accettassi lo scherzo, Comunque guarda, io provo a parlare con mia figlia, se non vuoi Carmelo, di Alghero, Carmelo di Alghero, no. Non vuoi, no, mi ha detto Alghero non se ne vuole trombare. Se c'ho il coma. Ho detto, come stai? Io potrei interessi, Gio? al marito, ma scusi un attimo, ma perché non ti rasi? Non avete, ci aveva freddo. Quando ci mette i collanti, lei sono tutti pieni fuori e fa da cosa, no? Da copertura. Ciao. Buona